Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questa voce indimenticabile di Pavarotti e con quest'aria, Nessun Dorma, iniziamo l'incontro di oggi. Nessun Dorma, quasi uno stile di vita dell'ospite che abbiamo con noi. Buongiorno Giacomo Corno. Buongiorno a lei. Beh, diciamolo subito, 83 anni, una vita passata all'interno del mondo delle imprese. Ha iniziato quando? Beh, ho iniziato avevo 18 anni facendo l'operaio. Per 4 anni ho avuto la possibilità di fare questo check-up, chiamiamolo così, l'impresa, perché sono passato dalle varie fasi che praticamente si susseguono nell'azienda, nell'impresa. Per cui devo dire che ne approfitto ancora una volta per dire anche in questa trasmissione che i grandi miei maestri sono stati questi 17 capi reparto che avevano il piacere, l'onore di trasmettere il senso del dovere, il senso del piacere, il senso di trasmettere ad altri le loro competenze. Era la fine degli anni 40, dopo la guerra, gli anni della ricostruzione, gli anni in cui c'era molto entusiasmo, anche molta passione, molta volontà di ripresa. Certamente c'era molta volontà di ripresa, c'era un avvenire davanti, venivamo dalle bombe, dalle distruzioni, per cui il discorso del Nessun Dorma di Pavarotti allora era anche molto attuale. Infatti l'Italia, il mondo intero, non ha praticamente dormito fino a un certo punto, poi i discorsi vanno avanti, si complicano. Ecco, Giacomo Corno, diciamolo subito, adesso è non so se è presidente, comunque è grande interprete dello studio Corno di Lissone, un grande studio di dottori commercialisti, di più di 80 persone, mi sembra, ed è l'animatore del Centro Studi d'Impresa di Valmadrera, che è un centro tra i più noti e affermati nella formazione, nella cultura aziendale. Questo per arrivare alla fine, per spiegare anche chi Giacomo Corno. Lei pensava all'inizio, quando ha cominciato a fare l'operaio, di fare poi la carriera che ha fatto e di essere così al servizio dell'impresa in tutti questi anni? Beh, assolutamente no. Devo dire che se si inizia un cammino e si comincia a fare il primo gradino, poi diventa automatico fare il secondo, il terzo, il quarto. Il problema è arrivare sul pianerottolo e farsi un esame di coscienza. Devo star fermo, devo andare indietro o devo andare avanti. Questa è stata un po' la mia regola. Sono stato molto fortunato, ho trovato gente, persone molto per bene e devo dire che ho lavorato molto con dei clienti che soprattutto erano degli amici. Questo studio, che praticamente è molto importante, dove lavorano in modo particolare, lo dirigono praticamente mio figlio, professor Fabio, che tra l'altro è anche docente all'università, e mio figlio Giorgio, che è un avvocato internazionale, e c'è da 67 anni. Pian piano si è portato avanti, si è ingrandito. Quindi ha saputo scegliersi bene i figli, allevarli bene, scegliersi bene i collaboratori. Beh sì, in effetti i figli risplendenti, sono molto bravi, e anche dei collaboratori che praticamente sanno che devono dare soprattutto serietà e poi competenza. E poi ha avuto la fortuna di essere in Brianza, che è una terra in cui l'imprenditoria è di casa, è quasi una realtà, diciamo, genetica. Eh sì, diciamo che la Brianza ha sempre avuto la malattia del lavoro, in effetti. Per cui c'è stato anche un discorso di grande emulazione, per cui la crescita avveniva secondo i bisogni di un'economia che si espandeva, ma in effetti le aziende crescevano anche per emulazione. Mio fratello ha fatto questo discorso, ha costruito un campanone di 2000 metri, perché io non devo farlo? Per cui magari progettava, faceva il campanone e poi si chiedeva cosa ci metto dentro. Sembravano praticamente delle follie, ma erano magari delle follie. Però devo dire che la crescita della Brianza è dovuta soprattutto alla buona volontà della gente e poi alla grande intuizione e poi al grande senso del dovere. Il lavorare in Brianza, noi lavoravamo 12, 13, 14 ore al giorno, la domenica fino a mezzogiorno, ma non sentivamo praticamente nessuno sforzo, era naturale. Era naturale, lo facevi volentieri, naturale, arrivavi alla domenica pomeriggio che eri sereno e felice. Com'è cambiata la Brianza rispetto a 60 anni fa, quando lei ha cominciato a lavorare, quando appunto le aziende cominciavano, nascevano, ma si sviluppavano, hanno cominciato a crescere, poi hanno avuto anche, come tutti, i loro periodi di crisi. Questo è uno dei periodi di crisi forse peggiori degli ultimi decenni. Ma com'è cambiata la Brianza da un punto di vista anche così umano, direi, di carattere delle persone? Beh, moltissimo. Diciamo che dall'alluvione del Vajont è cominciato un cambiamento, diciamo, perché praticamente gli alluvionati del Vajont sono venuti in molti a lavorare in Brianza e hanno imparato il mestiere. Poi dopo sono andati nel Veneto, sono tornati nel Veneto, hanno avuto due politici importanti, Rumor e Bisaglia, i quali li hanno, diciamo così, facilitati con dei finanziamenti pazzeschi, per cui sono nate delle industrie molto importanti, molto più grandi di quelle che praticamente c'erano prima in Brianza, e è nato praticamente l'economia del nord-est. L'economia del mobile del nord-est è nata dai mestieri che agli alluvionati del Vajont ha insegnato i falegnami e tutti gli operatori economici della Brianza. Quindi in pratica hanno insegnato alle persone a fare concorrenza poi alla stessa Brianza, e quindi anche a creare un'alternativa un po' dei poli di crescita, che comunque positivi poi per l'economia complessiva. E l'economia, noi diciamo sempre che noi siamo bravi come brianzoli, io sono brianzolo quindi non posso dire diversamente, anche se lo penso veramente. Noi abbiamo fatto sempre però ricerca, la ricerca sul pezzo, la ricerca sul prodotto, la ricerca sul mercato, per cui non so, abbiamo avuto l'onore sempre di essere copiati, tanto per essere chiari, per cui anche la concorrenza delle altre regioni è stata una concorrenza che da una parte ci ha infastidito, da una parte no, perché loro sono cresciuti già col concetto dell'industria, per cui non avevano la mano dell'artigiano, la mano dell'artigianato, che poi ha formato l'essenza dell'impresa della Brianza. La Brianza è un sinonimo di qualità, ma veramente di qualità, perché c'è la gente che ha grande qualità. Poi, per amor di Dio, mica abbiamo fatto solo il mobile in Brianza, abbiamo fatto una serie di... Noi stessi in Studio Corno abbiamo 43 tipologie di clienti diversi. Quindi la meccanica, quindi la componentistica. A parte noi non lavoriamo solo in Brianza, lavoriamo praticamente in Italia e anche all'estero in modo particolare. Facciamo l'internazionale. Però diciamo che la Brianza ha avuto l'innovazione. Io e mio figlio, per esempio, il secondo, che è il dottor Giulio, tutti e tre i miei figlioli hanno fatto 5 anni in America, da 18 a 23 anni, no? Per cui hanno fatto Harvard, hanno fatto Columbia, eccetera, dei master, lavorandoci poi anche in Italia. Diciamo che c'è stato un tipo di evoluzione. Io facevo l'operaio e loro praticamente ho ritenuto che dovessero studiare. Questo è un po' il discorso. Però in questo tipo di discorso brianzolo c'è anche l'innovazione tecnologica molto importante. Incontri di Gianfranco Fabi. vincerò, ancora con queste note di Pavarotti. Riprendiamo il nostro incontro di oggi. Buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano, con Giacomo Corno. Giacomo Corno, classe 1928, lo abbiamo detto, più di 60 anni passati all'interno delle imprese, prima come operaio, faccio un breve riassunto del pezzo precedente, poi come dottore commercialista, fondando lo studio Corno, che è diventato uno dei più importanti studi di dottori commercialisti in Italia, Rissone, e poi il centro studi di impresa dal 78 a Valmadrera, che è un centro, come può definire il centro studi di impresa, dottor Corno? Beh, diciamo che è un centro molto importante che cura moltissimo la qualità e praticamente è servito e serve ancora per studiare, perché in effetti nelle fasi della crescita della Brianza c'è stato un evolversi del fare, non accompagnato dallo studiare, dal pensare, dalla ricerca, anche perché l'economia era trascinata da una mamma che si chiamava Domanda, certo, che trascinava tutto. Finita la domanda, il problema si è abbastanza complicato, vedere l'economia nella quale viviamo adesso, dove praticamente un discorso ha perso i suoi confini, questo discorso di attualità, per cui alla fine non si sa al limite da che parte barare. Però ritengo che formandosi l'unità centrale, la testa, e quindi lasciando questa eredità, perché non penso che il mondo sia un discorso mai votato sui beni materiali, penso che si sia passata l'epoca della ricerca esasperata dei beni materiali per passare a un discorso di scoperta e di incentivazione di beni immateriali. Che cosa può fare un ragazzo oggi? Deve praticamente vedere, capire questa tecnologia. Come dicevo prima, io e mio figlio Giulio, il quale ha inventato questa azienda innovativa in un modo particolare che si chiama Tribù, e che fa tutto un discorso di una tecnologia così avanzata che sembra difficile da capire, ma che però porta le aziende a capire che risparmiando anche denaro si può vendere il prodotto attraverso i mezzi di comunicazione. Questo è un problema di fondo, quindi pensi a quante spese le aziende, certo, eliminano. Questo è importante. Però parlando della necessità di fare l'unità centrale, vorrei dire questo. Io ho fatto l'operaio. Dopo ho sentito bisogno di mandare i miei figli a studiare negli Stati Uniti. Un rischio, a un determinato momento, parliamo di 30 anni fa, 35 anni fa. E si può immaginare Brianzolo che manda tre figli negli Stati Uniti, o è matto, o infatti poi mia moglie a un determinato momento è andata anche lei per vedere cosa facevano. Perché c'era il rischio che non tornassero, che si trovassero troppo bene negli Stati Uniti. Esattamente, poi sale le favole degli Stati Uniti, oddio, certo, tutti drogati, eccetera, compagnia bella, per cui dopo che l'avevamo mandati con una decisione comune mia e di mia moglie, che tra l'altro era abituata a competere in campo nazionale perché è stato l'olimpionica, la prima olimpionica d'Italia di scherma, per cui abbiamo fatto un discorso, operaio, addirittura all'università. Adesso con mio nipote, che è il Gian Giacomo, siamo ritornati all'origine. Lui fa praticamente sul campo un discorso di apprendimento. Adesso, per esempio, lavora per un anno alla Banca Intesa Russia, in banca, per cui conosce la banca in questo momento in cui la finanza, conosce, certo, la finanza. Un po' il percorso che ha fatto lei, conoscendo l'impresa dall'interno. Esattamente. E, poi e mi sembra che sia poi fondamentale questo passaggio in cui ha fatto il dottore commercialista, ma ha capito che l'azienda non era solo contabilità, aveva bisogno anche di capire il mondo esterno, di crescere, e che appunto il vostro mestiere di commercialisti poteva crescere se crescevano le aziende, e potevano crescere solo se avevano una prospettiva di innovazione, di maturazione, proprio facendo quello che fate col centro studi di impresa, e quindi la formazione professionale a livelli più alti. Sì, le dirò che praticamente io mi definisco un aziendalista più che un commercialista. Diciamo che probabilmente io sono un imprenditore prestato alla professione. Cioè, anch'io ho avuto il mio travaglio, il mio cambiamento. Perché poi lei ha fatto anche l'imprenditore, mi pare che abbia fatto l'amministratore di scuole, di ospedali. Sì, abbastanza. Mi sono divertito anche, per esempio, con l'esperienza che ho fatto al Collegio Viloresi di Monza, dove praticamente abbiamo cambiato il registro del modo di insegnare, ho trovato delle bravissime persone e nella mia vita ho trovato anche, quando ho fatto il consigliere d'ospedale, presidente d'ospedale della prima azienda municipalizzata italiana, eccetera. Io ho avuto la fortuna di avere sempre dei consiglieri meravigliosi, ma veramente meravigliosi. E ha fatto anche il banchiere, è stato consigliere di Deutsche Bank. Sì, ho fatto 20 anni di banca, da Banca Popolare di Lecco, siamo andati avanti e poi siamo arrivati a Deutsche Bank, esperienza internazionale, quindi Banca Popolare di Lecco, una banca locale, poi Popolare di Lecco è stata subita da Deutsche Bank, vede che... E poi ha una passione per la Russia. Eh sì, ho una passione per la Russia perché ci vado da 18 anni, la Russia per me è la mia seconda patria, per dire la verità, perché sono andato con un gesto di follia, con 147 imprese nel 1992, allora conoscevo bene Gorbaciov, e sono andato a fare un'esposizione dei mobili italiani al maneggio del Cremlino. Si può immaginare la follia, se ci penso adesso mi viene da rabbrividire. C'era uno striscione fuori dal Cremlino, questo rigore di questa Russia bellissima, affascinante. Erano gli anni 90? Erano gli anni 93. 93. C'era uno striscione di 50 metri per 4 con scritto in cirillico e in italiano: e le imprese della Brianza sono qua. E questa è stata una delle iniziative, poi avete fatto missioni all'estero? Sì, abbiamo fatto 43 paesi con missioni economiche, perché già 30 anni fa pensavamo che il mondo andasse la pena di essere visto. Ecco, potremmo parlare per ore in fondo dei suoi 80 anni di attività, ma che cosa le resta più impresso? Quale paese all'estero forse a cui si sente più vicino? Quale le ha dato più emozione? Beh, direi la Russia sicuramente, perché sono 18 anni che vado, 5-6 volte al mese, per cui alla fine diciamo che lo conosco molto bene il paese, l'ho visto anche crescere attraverso le fasi della sua trasformazione, per cui io sono anche appassionato di problemi di studio, io sono convinto che non basta sapere una lingua, bisogna sapere conoscere il paese nel quale si parla questa lingua, se no è inutile. Stiamo andando verso la conclusione, guardiamo un attimo il nostro paese, magari partendo dalla Brianza, che è un po' il cuore e il cervello di questo nostro paese, dove si opera, dove c'è un laboratorio anche dell'innovazione, ce la faremo? Ma sicuramente sì, d'altra parte le difficoltà forgiano le persone. E quindi anche in questo periodo, che è uno dei più difficili, nella sua esperienza lei ha vissuto altri periodi così complicati? Ho vissuto almeno 20-25 crisi. Questa è una crisi molto particolare, perché le altre erano crisi solamente economiche. Queste sono crisi soprattutto di uomini che non pensano. Questo è il problema fondamentale. Ritorniamo al concetto: cosa lascio ai miei eredi? I cespiti, i beni materiali. Ma che importanza ha questo? Bisogna lasciare ai nostri eredi il bene immateriale, insegnare il buon senso, insegnare la voglia di lavorare, insegnare di studiare, insegnare ad amare la propria vita. Insegnare che si può sempre fare dei passi in avanti, che si può sempre cercare qualcosa di diverso, che si può sempre migliorare. Esatto. In fin dei conti l'amore è una cosa splendida, L'amore con la maiuscola, l'amore inteso nel senso più vero, verso la donna, verso l'impresa, verso il lavoro. Sempre di amore si parla, no? Altrimenti poi si capita in un discorso di quotidianità dove trovi la noia. Io devo dire la verità, non mi sono mai annoiato in 63 anni, perché quando pensavo di aver poco da fare, mi davo da fare per trovare qualcosa di più. In fondo perché ha pensato che anche il denaro, che poi come uomo d'impresa ha sempre dovuto maneggiare, è in fondo uno strumento che va utilizzato. Certo, certo, è necessario, bisogna rispettare il denaro. Però il denaro è un mezzo, non è mai un fine. D'altra parte sull'ebreo è morto disperato, perché non perché moriva, perché lasciava i suoi beni. Non è un grande esempio. Quindi la speranza? Ma io penso di sì. e l'amore. Io penso di sì, la speranza e l'amore. Due parole con cui concludiamo questo nostro incontro con Giacomo Corno, la speranza e l'amore. Forse non ci aspettavamo di concludere con questo modo un incontro con uno dei più grandi, possiamo dirlo, studi titolari di uno dei più grandi studi di dottori commercialisti, di appunto uomini d'impresa d'Italia. Grazie a Giacomo Corno, grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per la prossima settimana.